fatto sempre dalla voglia di prendersi in giro, di non essere mai troppo seri, soprattutto con le cose che si fanno, no? E mi capitava spesso all'inizio, quando si andava in giro, le prime serate così, ma quante birre fai, quanti tipi fai, come li fai, no? E allora quando si parlava di queste cose, di solito, spesso almeno mi veniva detto, ah ma beh, comunque quindi prodotti di nicchia, prodotti di nicchia, e questo lo sentivo dire anche ai miei amici che fanno salumi, formaggi, queste cose qua. Allora alla fine ho detto, vabbè, se tutti quanti qui facciamo prodotti di nicchia vuol dire che viviamo nella nicchia, e di conseguenza siamo dei nicchioni. Eccolo. dei nicchioni, cioè, difatti c'è, io sarei qui, sono il nicchione birrafondaio, poi c'è il capo nicchione che è Walter Massa, che è un po' quello che ci ha sdoganato in giro per l'Italia, non solo, insomma, sempre così per prendersi in giro, ovviamente. Perché alla fine è sempre birra, no? Non ho capito, scusa. Perché alla fine è sempre birra, come dicono alcuni, no? Porca miseria, altro che sei sempre birra. Sì, non è che adesso, così, come dicevano certi vecchi dalle mie parti, non è che puoi stracciare i maroni a tutto il mondo con una cosa che al 95% è acqua, quindi voglio dire. Perfetto Riccardo, allora io ti ringrazio per questa bellissima intervista e spero di poterti riavere di nuovo a Birradio quanto prima, anche per un progettino che ci eravamo detti un po' di tempo fa che riguardava un po' Ricordo, la ricordo. commissione, no? Birra, Sì. vino, eccetera, però magari chissà, Vabbè. riusciamo a farne qualche cosa di più concreto, no? Sicuramente, sicuramente. Grazie Riccardo. Grazie a te, a presto. Ciao. Birradio, Birradio, Birradio, Birradio, Birradio, Birradio. Eccoci di nuovo con Birradio, primo podcast italiano sulla birra artigianale e la birra fatta in casa. Abbiamo sentito poco fa Riccardo Franzosi del birrificio Montegioco, abbiamo parlato di premi e di riconoscimenti e di premi e di riconoscimenti parliamo con Simone Monetti di Union Birrai. Grazie Simone per essere sempre qui a Birradio. Grazie a te, Tony. Ciao, buongiorno. Allora, andiamo avanti con questa nostra collaborazione, Birradio Union Birrai, Union Birrai Birradio. Parliamo di Birra dell'anno 2013, il concorsone italiano per eccellenza delle birre artigianali. Allora, sta partendo finalmente. Sì, parte, parte, anche se non sembra, ma parte, nel senso che siamo assolutamente in marcia come macchina, che è sempre un po' più importante, sempre un po' più pesante. Speriamo chiaramente di venire premiati dal numero di birre iscritte, che questo è quello che conta molto. Comunque, il concorso si svolgerà a fine febbraio, qualche giorno prima, un paio di giorni prima dell'inizio di selezione birra, che è il 23 di febbraio, e apriremo ad ore le iscrizioni, però nel frattempo già abbiamo pubblicato regolamenti e categorie che sono un pochino cambiate, in modo che chi vorrà partecipare si possa preparare per tempo, insomma. Ecco, parliamo delle categorie, abbiamo notato in internet, c'è cioè l'elenco delle categorie, cosa è stato cambiato, quali sono, diciamo così, in sintesi, le novità di quest'anno? Ma allora, intanto partiamo sempre un po' dal presupposto di dover fare come dire, un riassunto delle puntate precedenti, no? Il nostro è un concorso che, a differenza di altri concorsi, ovviamente, che conosciamo tutti, molto più grandi, che hanno rilevanza internazionale, un concorso nazionale, e che quindi sta crescendo, diciamo, nelle ultime edizioni, a un ritmo di crescita come numero di iscrizioni attorno al 10-15% ogni anno.